Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per questo appuntamento che mensilmente cerca di sollevare un po' questo velo di silenzio e di censura che tocca un tema così difficile da affrontare eppure così attuale. E parlo della vita eterna. E parlo del destino ultimo dell'uomo, per affrontare il quale occorre passare attraverso quella soglia quasi imbarazzante che è proprio il problema della morte. E stiamo facendo questo percorso seguendo un testo che ho avuto occasione di recente di ripubblicare e che vedo sta toccando nel vivo quanti, avendolo già letto qualche tempo fa, si ritrovano a scorrere nelle pagine perché le domande sono le domande di sempre. Le domande di senso, le domande che interrogano l'uomo su quello che è il cammino della vita, ritornano in momenti diversi della vita. Si potrebbe dire che l'inchiostro sulla carta è lo stesso, ma il lettore no. Gli occhi con cui leggi queste pagine, con cui le leggo io stesso a distanza di qualche tempo, non sono gli stessi. E questa sera toccheremo diversi spunti, arriveremo a parlare poi del tema centrale. Della reincarnazione, per capire se poi si può parlare di reincarnazione in ottica cristiana oppure no, visto che tanti che si dicono cristiani della reincarnazione fanno una bandiera e un credo anche per la loro vita, ma voglio partire ecco, da un altro punto che mi ha colpito anche per alcune conversazioni avute in questo periodo, un periodo molto difficile in cui a causa della pandemia da coronavirus il tema della morte, del lutto, della sofferenza è molto più vicino a noi di quanto forse non fosse prima. E vediamo che in questa drammatica situazione di pandemia c'è una provvidenziale opportunità per riflettere su quanto fragile sia la vita dell'uomo. E mi viene in mente una frase che sentivo dire dai grandi quando ero piccolo, si muore come si è vissuto. E alla fine una persona raccoglie quello che semina lungo tutta la vita. Certo, è possibile guardare a conversioni dell'ultimo istante come quella del buon ladrone che aprono orizzonti di speranza meravigliosi per chi magari si è pensato lontano da Dio e dalla salvezza fino all'ultimo appunto, ma normalmente quello che emerge è quello che sotto traccia già si poteva trovare. Perché dico questo? Perché devo dire che quando mi capita di ricordare gli episodi legati alla conversione e alla morte di mio zio, che è anche il mio padrino di cresima, il fratello di mio papà, che è morto nel 2013, ammalatosi prima di mieloma e poi di mesotelioma, che è un male per chi è di Casale Monferrato ben noto, legato alla tragedia dell'Eternit, la malattia dell'amianto. Ebbene, quando ripenso alla sua vicenda, mi pare proprio che si trovi conferma di quello che ho appena detto. Alla fine si muore come si è vissuti. E mio zio si è avvicinato alla fede, o si è riavvicinato alla fede ormai adulto, ecco, sicuramente complice la malattia che ha provveduto a purificare tante imperfezioni e forse ad abbattere tante false certezze. E poco dopo la sua morte, la moglie mi ha chiesto di ordinare un po' tutto il materiale informatico di mio zio. Allora mi sono messo a lavorare sul suo personal computer e mi ha colpito trovare una cartella in cui salvava i file che poi avrebbe inviato periodicamente a una mailing list di amici, in cui erano compresi soprattutto gli amici del gruppo Alpini, sezione di Casale Monferrato, di cui faceva orgogliosamente parte. Ecco, l'ultimo file che era stato salvato poco tempo prima di entrare all'hospice, dove avrebbe trovato la morte appena 2 settimane dopo il ricovero, e riportava questo testo che vi leggo. Il testamento di Alessandro Magno. Sul punto di morte, Alessandro Magno convocò i suoi generali e disse loro le sue ultime 3 volontà. 1. Che la sua bara fosse trasportata sulle spalle dai medici del tempo. Che i tesori che aveva conquistato, oro, gioielli, fossero sparsi sulla strada verso la tomba. Che le sue mani fossero lasciate penzolare fuori dalla bara, alla vista di tutti. Uno dei generali, scioccato da queste insolite ultime volontà, chiese ad Alessandro quale fosse il motivo. E Alessandro rispose: Voglio che siano proprio i medici a trasportare, scusate, la mia bara per dimostrare che non hanno poteri di guarigione davanti alla morte. Voglio il suolo ricoperto dai miei tesori, per far ricordare che i beni materiali qui conquistati qui restano. Infine, 3, voglio le mie mani al vento perché la gente veda che veniamo a mani vuote e a mani vuote andiamo via. E che io non so quanto sia storicamente affidabile questo testo, che sicuramente mio zio avrà reperito in rete, però contiene un grande insegnamento. Il tempo è un dono prezioso e dobbiamo saper usare il tempo della nostra vita giorno per giorno per prepararci al gran finale. Persino un grande protagonista della storia antica come Alessandro Magno, che è stato capace di conquistare il mondo intero, era ben consapevole che neppure i migliori medici del tempo l'avrebbero salvato dalla morte. Questo è il gran finale della vita, è il momento in cui si tirano le somme di un'intera esistenza e per affrontare la morte senza paura, ma con la consapevolezza che almeno umanamente si è fatto tutto quanto era possibile, no? Per vivere nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Per arrivare con questa consapevolezza bisogna partire da lontano. Mi ha colpito trovare questo testo perché mi sono accorto che mio zio frequentava letture e testi legati a questo tema ben prima che la malattia lo colpisse. E questo mi ha fatto pensare che se non si vive già con lo sguardo predisposto ad andare oltre, uno non riesce ad affrontare quelli che sono proprio gli incerti della vita. Non si riesce a guardare avanti. E questo guardare avanti penso che sia veramente fondamentale. È un guardare a quell'oltre che si spalanca sull'eternità. Ma allora, di fronte a questo desiderio di vivere per sempre, di fronte a questa consapevolezza che c'è la morte, ma non è la fine, viene da chiedersi: ma se il cuore dell'uomo dice che ogni persona è fatta per l'infinito, è fatta per la vita, perché c'è la morte? E per rispondere a questa domanda dobbiamo ancora una volta sollevarci dall'orizzonte puramente medico-scientifico, perché a livello scientifico la domanda sarebbe come si muore? E la risposta non potrebbe che essere un elenco delle cause materiali concrete che indurrebbero ad esempio la cessazione progressiva o istantanea delle funzioni vitali di base, dell'encefalo, del cuore o dell'apparato respiratorio. Ma la domanda va intesa in senso più radicale: perché c'è la morte? Quando i bambini pongono la domanda ai genitori perché si muore, non stanno chiedendo se è più importante che si fermi il cuore o che i polmoni non funzionino, ma stanno chiedendo: ma per quale motivo, se la vita è così bella, c'è la realtà drammatica della morte? Per quale ragione nella vita dell'uomo esiste questa drammatica realtà? Questa è la domanda che l'uomo si fa da sempre. E uno non deve pensare che siano domande senza senso o da lasciare magari così a persone con tanto tempo libero e magari a pochi impegni come Giacomo Leopardi e i suoi fratelli. No, sono le domande serie che l'uomo adulto si fa e che non censura, per quanto difficili siano. Se la vita prende significato dalla morte, perché se essa è la fine, la vita è un ben misero cammino fatto di fatica o di dolore, ma se invece è una porta aperta sull'infinito, allora l'esistenza terrena ha un valore inestimabile. Perché? Perché diventa un'anticamera sull'eternità. Allora bisogna chiedersi quale significato ha la morte in sé, qual è il suo senso, qual è il suo scopo, qual è cioè il fine della fine della vita. Perché c'è un fine vita? È facile fare leggi, mettersi a dire anzitutto ogni uomo ha diritto di decidere quando uscire dalla vita. No, ma chiediti se abbiamo diritto di disporre di una realtà che non abbiamo scelto. Chiediti se è lecito scegliere quando debba accadere una realtà che non hai scelto. Perché è la natura della morte. E qui devo dire che il rapporto con la morte non sono io a poterlo decidere. Allora, qui bisogna dire una cosa ovvia, che la morte appare ripugnante a ogni uomo e, se credente, A un credente appare come qualcosa che Dio, che è buono e autore della vita, non può aver voluto fin dal principio, perché la morte collide con l'idea di un uomo vivo, amato, voluto bene. Se Dio è il Dio della vita, come potrebbe avere dunque creato la morte che della vita è la negazione? La morte non apparterebbe dunque al disegno originario del creatore, ma sarebbe la punizione per il peccato dell'uomo, anzi dei nostri progenitori, e il cosiddetto peccato originale, che avrebbe causato la cacciata dall'Eden originario di Adamo ed Eva e la perdita dei doni di Dio. Adamo ed Eva, ricordiamo che fin dal principio godevano della integrità fisica e morale, e di una certa immortalità, vedremo poi cosa intendiamo, e soprattutto l'amicizia con Dio. Nella Sacra Scrittura, sono numerosissime le citazioni che si possono trovare a riscontro di questa relazione tra il peccato delle origini e la morte, che ci fanno capire come la morte non fosse un dato originario. Sapienza, capitolo 1, versetto 13: Dio non ha creato la morte. Ancora libro della Sapienza, capitolo 2, versetto 24: La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Questa è una frase molto importante. Sappiamo che la morte sarà la conseguenza del peccato originale, e al peccato originale i nostri progenitori, prima Eva e poi Adamo, sono stati spinti dalla tentazione del serpente, invidioso di che cosa? Beh, secondo i padri della Chiesa, dell'aver intuito che l'uomo avrebbe ricevuto un privilegio che agli angeli non era riservato, cioè che la seconda persona della Trinità, il Verbo, si sarebbe incarnato e fatto uomo. Questo è un privilegio meraviglioso, di cui neanche gli angeli godono. Gli angeli, che sono puri spiriti, intelligenze finissime, creati per l'immortalità, non godono del privilegio che una persona della Trinità ha assunto la natura umana e l'ha, come si può dire, elevata, ecco, in dignità, in grandezza, facendo di un corpo umano non solo il corpo del Cristo terreno, ma il corpo del Cristo risorto, un corpo glorificato, per cui la natura umana, corpo e anima, si trova glorificata eternamente in Cristo. E questo è un privilegio che dice la partecipazione dell'uomo alla comunione d'amore della Trinità, che sorpassa ogni altro dono fatto agli angeli. Ancora lettera ai Romani di San Paolo, capitolo 5, versetto 12: A causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte. Qui San Paolo è nettissimo nel dire che la morte dell'uomo è la conseguenza del peccato originale. E ancora, lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 15, il peccato, una volta commesso, produce la morte. Qui si riferisce al peccato originale. Sono affermazioni che fanno intuire che se non ci fosse stato il peccato originale, non ci sarebbe stata la morte. Questa è una verità che anche la Gaudium Spes, che è la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, uno dei documenti di maggior rilievo del Concilio Vaticano II, bene, anche la Gaudium Spes esplicitamente afferma, al numero 18, la fede cristiana insegna che la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno. Ecco, noi interessa non soltanto che la morte corporale sarà vinta, ma l'inciso: l'uomo ne sarebbe stato esentato se non avesse peccato. Stesso insegnamento troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1008. Sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. Natura mortale perché era un corpo fisico corruttibile, ma forse avrebbe incontrato la morte, qualcosa come il passaggio dalla vita terrena alla vita eterna che ha vissuto la Madonna, come un'assunzione, una dormizia, un addormentarsi per risvegliarsi in un'eternità beata. Invece, la morte fu dunque contraria ai disegni di Dio Creatore ed entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Ecco, qui è proprio esplicito. D'altra parte, la morte appare qualcosa anche di naturale, appare un segno caratteristico del fatto che le creature sono finite. E quindi è naturale, è normale che l'uomo, come creatura finita, che è soggetta ai limiti del tempo e dello spazio, sottoposta ai processi di degenerazione e corruzione, e quindi di invecchiamento, di malattia, non è strano che la vita umana, almeno nell'orizzonte biologico, abbia un termine. Poi, se la si intende nell'ottica della fede come il passaggio dalla condizione finita e terrena alla definitiva realizzazione dell'uomo, essa assume persino una valenza positiva. Ma allora come si può mettere insieme il fatto che la morte sembra qualcosa di naturale, perché il corpo dell'uomo è qualcosa di fragile, e al tempo stesso il fatto che è conseguenza del peccato? Ecco, troviamo in Atanasio, grande vescovo e dottore della Chiesa del IV secolo d.C., l'affermazione che la possibilità della morte è iscritta nella natura umana. La possibilità. Era possibile che l'uomo morisse perché il corpo era fragile, ma il fatto concreto della morte è però dovuto al peccato. E Tommaso d'Aquino, nel III secolo, l'autore insuperabile della Summa Theologica, scrive: la necessità di morire per gli uomini deriva in parte dalla natura, cioè dalla condizione fisica e biologica, in parte dal peccato. E ancora, sempre San Tommaso, la morte è naturale per la condizione della materia, perché il corpo umano è fragile, invecchia, si deteriora, ma è un castigo per la perdita del dono divino che preservava dalla morte. Ora, se la condizione di Adamo, dobbiamo riflettere su questo, era quella di una vita di prova, perché avrebbe avuto una vita in cui sarebbe stato provato nella sua fedeltà in un certo arco di tempo, l'abbiamo già visto, perché essendo dotati di intelligenza discorsiva gli uomini e non intuitiva come gli angeli, non potevano in un secondo decidere pro o contro Dio, avrebbero avuto un certo tempo di vita a disposizione per essere messi alla prova. Possiamo pensare che anche Adamo avesse iscritta nella propria natura corporea, fisica, la morte come un fine naturale. Ma se l'uomo non avesse peccato, la morte sarebbe stata vissuta come un passaggio indolore. E ancora lo ripeto, come possiamo pensare sia stata l'assunzione della Madonna in cielo? Questa posizione, per cui ci sarebbe stata una morte prima del peccato originale, ma non sarebbe stata come la morte, conseguenza del peccato originale, la troviamo anche in una catechesi illuminante di San Giovanni Paolo II del 1986, in cui parlando di Adamo afferma che l'uomo, cito, non provava angoscia alla prospettiva della decadenza e della morte. L'uomo è stato creato per l'immortalità. Senza il peccato la morte non sarebbe stata così drammatica. Allora il problema non era che non ci fosse assolutamente una fine della vita terrena, ci sarebbe stata, ma non così drammatica. Come si potrebbe pensare, gli uomini avrebbero continuato a mettere al mondo dei figli, ma non sarebbe stata così dolorosa l'esperienza del parto. L'uomo avrebbe lavorato, in fondo era custode del giardino, ma non avrebbe tratto il frutto dalla terra col sudore della sua fronte. Abbiamo degli indizi nel testo della Genesi, capitolo 3, che ci fanno pensare che forse la morte di cui parla Dio anche come conseguenza della cacciata dall'Eden, che poi è una morte che in realtà preserva i nostri progenitori dal mangiare del frutto della vita eterna e rimanere eternamente in una condizione di inimicizia da Dio. Quindi è un bene che ci sia una mortalità al termine della quale si possa essere salvati e perdonati. Ma questa morte, che assume queste tinte così drammatiche, apparteneva comunque fin dal principio al progetto. Allora, il problema non è per la teologia cristiana la morte. Adamo era un essere mortale dal punto di vista fisico, ma sarebbe stata una morte indolore. Con il peccato originale diventa qualcosa di drammatico, ma la morte c'era. Il problema è chiedersi se ci sia una vita dopo questa morte e quale tipo di vita. Anche il canone primo del Concilio di Cartagine nel 418 afferma che Adamo non è stato creato mortale. Questo non significa che non avrebbe dovuto affrontare una certa esperienza della morte, a prescindere, lo ripeto, dal peccato originale, quanto piuttosto che questa sarebbe stata comunque una porta aperta su una vita senza fine. E invece la morte diventa drammatica perché dopo quella morte non è più scontato che ci sia una vita eterna, perché con il peccato l'uomo si apre alla possibilità di continuare a stare nel peccato, si apre alla possibilità di continuare a stare lontano da Dio e quindi che con la sua morte fisica non sia in comunione con Dio, ma finisca per essere dannato, per essere all'inferno, che, come insegna il Catechismo, al numero 1033, è lo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio. Ora, questo è un punto importante. Non è un problema la morte, ci sarebbe stata comunque perché il corpo umano è fragile, è finito, è caduco, ma ci sarebbe stato un passaggio comunque in una eternità beata. Invece, col peccato originale, la morte diventa un'esperienza drammatica, molto più dolorosa, di sofferenza morale, psicologica e fisica, e in più c'è la possibilità anche di perdersi. Ora, l'ipotesi che si affaccia su questo tema è proprio quella che era centrale nel tema della serata, della reincarnazione. Mentre un cristiano ammette, dopo il termine dell'esistenza terrena, la prospettiva della vita eterna, ovviamente vita eterna per chi muore in grazia di Dio, pentendosi dei propri peccati, e invece dannazione eterna per chi fino all'ultimo rifiuta ostinatamente la grazia di Dio. Sempre più diffusa, oggigiorno, anche tra tanti che si dicono credenti o cattolici, è la teoria secondo cui la morte, la fine di questa vita terrena, non sarebbe la fine assoluta della vita, bensì il passaggio a una nuova esistenza in un altro corpo, secondo un ciclo di vite successive che si svilupperebbe così, secondo la cosiddetta legge della reincarnazione, quindi incarnarsi di nuovo. L'anima passerebbe in un altro corpo, era la teoria che nell'antichità si chiamava della metempsicosi. L'anima attraversava corpi diversi, vivendo una successione di vite per arrivare a purificarsi. La Chiesa Cattolica invece afferma chiaramente che non c'è un'altra vita terrena dopo la singola esistenza in questo mondo che ciascuno di noi conduce. Dice infatti il Catechismo al numero 1013, cito l'articolo: la morte è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Ecco qual è lo scopo della vita terrena: realizzarla secondo il progetto di Dio e decidere del suo destino ultimo. Quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene, dice il Catechismo. È stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta. Lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 27. Non c'è reincarnazione dopo la morte. Ecco, questo è un punto importante perché tanta della confusione che si respira oggigiorno, soprattutto in tema di dottrina, è dovuta anche a questo pericolosissimo tentativo di religione fai da te, che è tanto diffuso anche tra i cosiddetti credenti e cattolici. E certo, la maggior parte sono i non praticanti, perché se vai a messa tutte le domeniche, per poco approfondite che siano le catechesi che ricevi nell'omelia festiva, comunque ti senti perlomeno richiamare ogni tanto la realtà della vita eterna. Non è così facile oggigiorno, ma diciamo che di escatologia ancora si sente parlare, non di certo di reincarnazione. Ma chi non pratica, chi non va in chiesa, chi non legge il catechismo, chi non legge la Bibbia e si ostina a dire io sono cattolico, ma come si forma? Ascolterà un po' di televisione spazzatura, qualche cosa appreso sui social, qualche polemica in rete, qualche chiacchiera con gli amici e ognuno si fa la propria idea. E quindi capita di sentire qualcuno che dice c'è anche la reincarnazione. Ma persino la sapienza biblica pre-cristiana negava la reincarnazione. Il libro della Sapienza, capitolo 2, versetto 5, afferma: la nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno dalla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Certo, la Sapienza dice nessuno torna indietro, ma Cristo, uno potrebbe dire, è tornato indietro. In realtà no, è andato avanti. Chi torna indietro è Lazzaro che viene resuscitato, cioè richiamato alla vita terrena. Invece Cristo va oltre. Vedremo come la reincarnazione non regge di fronte alla consistenza unica della nostra vita terrena, ma neanche di fronte alla bellezza della resurrezione, che è un innalzamento della vita dell'uomo a un piano ben superiore. Per chi ha fede è sufficiente accettare l'insegnamento della Chiesa in quanto è vincolante e meritevole di obbedienza di intelletto e volontà, cioè va compreso e anche seguito. Non basta dire ho capito, no, hai capito, però bisogna anche fare come la Chiesa insegna. Ma questo non significa che la verità contenuta nell'articolo che sopra ho citato del Catechismo, come ogni altra verità, della fede cristiana, abbia la pretesa di valere soltanto per i credenti e non per ogni uomo. Questo articolo non sta parlando ai cristiani, se sei cristiano per te vale questo, ma sta dicendo per ogni uomo la verità è questa, non c'è reincarnazione dopo la morte. E questo perché? Perché Gesù Cristo, che è Dio fatto uomo, si è incarnato per rivelare all'umanità l'amore di Dio. È il volto della misericordia, ma anche per mostrare all'uomo il suo vero volto. E qui devo citare un passaggio bellissimo, ancora della Gaudium et Spes, il numero 22. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Ecco qui questo è il senso. Uno che vuol sapere, ma com'è la natura umana, com'è fatto l'uomo, perché cosa è fatto l'uomo, deve guardare a Cristo, che è l'uomo perfetto. Questa è una chiamata a diventare, ovviamente natura altissima, è la chiamata a diventare in Cristo attraverso di lui figli adottivi di Dio. Ora proviamo a riflettere su quello che il Catechismo afferma, per capire se veramente in questo articolo, che nega la reincarnazione, che parla di una sola vita terrena, ci sia una traccia di questa verità universale, perché la pretesa è che valga per tutti gli uomini e non solo per i cristiani. Innanzitutto si afferma che l'uomo dispone di una sola vita, come tempo per meritare la salvezza. Dopodiché ci sarà il momento del giudizio. Questo appare ragionevole e direi anche corrispondente a quella sorta di meritocrazia a cui spesso si fa appello per giudicare l'operato terreno dell'uomo. Uno guarda la vita umana e di solito si dice dovrebbero essere ricompensati i meriti e punite le colpe, no? Quello che vale per le carriere lavorative dovrebbe valere anche per le carriere esistenziali. Se questa vita è data per la salvezza, come si potrebbero prendere seriamente in considerazione azioni buone, cattive, vizi e virtù se si posponesse il giudizio, concedendo comunque un'altra possibilità con la reincarnazione? Se questa vita che io sto vivendo adesso non è l'unica, non è così decisivo, come faccio a attribuire un valore decisivo alle mie scelte e alle mie azioni? Forse potrei essere tentato, ammettendo l'ipotesi reincarnazionista, di pensare, beh, anche se agisco così, così male, non è un problema. Intanto poi mi reincarno e recupero. Insomma, se diciamo che la vita è una sola, pare questa la miglior difesa del valore, della dignità e dell'importanza della vita umana, di quanto non rischierebbe invece di accadere con la reincarnazione. È come se si prendessero di più sul serio le proprie azioni perché avrebbero conseguenze grandissime, non istantanee, perché la vita dell'uomo è fatta di un percorso più o meno lungo, ma comunque è un percorso, non uno dei tanti. Ma c'è di più, e si tratta del fatto che reincarnandosi un'anima non si ricorderebbe più del proprio passato, né conserverebbe memoria delle persone care, degli affetti familiari, insomma, si perderebbe la propria identità e questo non pare affatto ragionevole. Laddove consideriamo il fatto che ciascuno di noi tiene enormemente alla propria identità individuale e irripetibile. Tanto che una delle domande che mi sento più fare quando faccio una catechesi sulla vita eterna è questa: ma una volta che saremo morti nell'aldilà, ci ricordiamo chi siamo stati? Riconosceremo i nostri cari? Questo evidentemente lo chiede chi non si preoccupa della reincarnazione, ma ci tiene al proprio io, alla propria storia, ai propri affetti, alle proprie relazioni. Ed è ovvio che questa perdita di identità, che passerebbe da una reincarnazione all'altra, porterebbe delle conseguenze inaccettabili. Alla fine, chi sono? Qual è il mio io che rimane in eterno? Di quale vita farò parte? E poi come sostenere questa ipotesi quando non c'è una sola anima che possa dire sono stato prima Napoleone e prima ancora Giulio Cesare? Ricordo un aneddoto in particolare che mi è accaduto diversi anni fa quando mi trovavo in Laos durante una tappa di un viaggio che ho fatto per andare in Australia, no? E in questo gruppo giungiamo a visitare un monastero di monaci buddisti e pensando di farmi una cosa gradita, visto che tutti i turisti amano immergersi in quelle tipiche oasi di pace e di silenzio, no? Recuperando un po' della spiritualità che in Occidente oggi pare forse così carente, no? E io comunque sono andato a visitare questo monastero con chi mi accompagnava e ci hanno portato a visitare un monaco più anziano in una capanna di legno sollevata da terra, portando pane e latte come offerte, no? E in segno, vabbè, di rispetto, ma anche in linea con la condotta di vita molto austera, molto frugale. Condotta da quella guida religiosa. L'incontro è stato breve, no? Perché era un vecchietto, parlava soltanto in lingua locale, eravamo in Laos e c'era un giovane monaco che traduceva in inglese per noi. Alla fine siamo usciti dalla capanna e siamo stati invitati a passeggiare un po' lungo i viali del giardino per meditare, no? Su quello che avevamo ascoltato. Io vedevo tutti i miei amici occidentali che meditavano con aria assorta sui grandi insegnamenti di vita ricevuti, mentre io sentivo nascere in me una domanda. Allora mi sono avvicinato al giovane monaco che aveva fatto da traduttore e gli ho posto l'interrogativo che avevo nel cuore. Ma il monaco che presiede il monastero, gli ho chiesto, ha parlato della vita e della morte e ha detto che al termine della nostra esistenza saremo come gocce che si perdono in un unico immenso mare. Ho capito bene? Il giovane che era compiaciuto, no, di potersi intrattenere con un occidentale interessato alla loro dottrina si è aperto. Ma certo, saremo come gocce del mare, perderemo quanto oggi ci separa gli uni dagli altri, saremo un tutt'uno. Al che gli ho detto, scusa, ma quindi perdiamo la nostra identità per fonderci in un unico grande essere in cui non ci sono più né tu né io, ma siamo soltanto un indistinto noi? E lui tutto entusiasta, ma sì, sarà proprio così. Allora io che entusiasta non ero al pensiero di perdere la mia identità, la mia storia personale, così profondamente amata da Dio, che ama gli uomini tutti e ciascuno di un amore infinito, gli ho posto una domanda che forse avrà giudicato almeno strana, no? Ma scusa, ma tu non ti sei mai innamorato? E lui, ma cosa c'entra questo con le domande sulla vita dopo la morte? No, per favore, rispondimi. Al che questo giovane monaco, un po' imbarazzato, ha ammesso, ma sì, sono stato innamorato prima di entrare qua in monastero 3 o 4 anni fa, avrà avuto 20 anni, no? E beh, ho aggiunto, ma e mi sai dire se quando eri innamorato avresti voluto essere corrisposto proprio da quella ragazza là, oppure una qualsiasi sarebbe andata bene? Avresti desiderato che la fanciulla si innamorasse di un ragazzo qualsiasi, oppure proprio di te? Ovviamente, gli ho detto, avresti voluto che lei amasse te e nessun altro. Vedi, l'identità del singolo, gli ho detto, è fondamentale nell'amore che viviamo qui sulla terra e ancor più sarà dopo la morte, quando io, proprio io, incontrerò Dio che è amore. Il giovane non ha replicato, è rimasto in silenzio, un po' confuso, un po' meditabondo, mentre io pensavo, ecco quanto è grande, bella e ragionevole la fede cristiana, perché ti porta a riflettere per trovare le conferme in quanto Gesù ti ha rivelato. Questa vita è una sola. E chi può aggiungere un'ora sola alla propria vita, chiede Gesù nel Vangelo, figurati se puoi aggiungere un'altra vita intera. E mi piace ricordare anche un messaggio della regina della pace, Medjugorje, che ben esclude questa ipotesi della reincarnazione. 24 luglio 1982. Al momento della morte si lascia la terra in piena coscienza, quella che abbiamo ora. Al momento della morte si è coscienti della separazione dell'anima dal corpo. Eh sì, perché l'intelletto e la volontà sono nell'anima e l'anima non muore, non è in coma, non ha tumori, non prende il coronavirus, l'anima è immortale. È sbagliato, dice la regina della pace, insegnare alla gente che si rinasce più volte che l'anima passa in diversi corpi. Si nasce una volta sola e dopo la morte il corpo si decompone e non rivivrà più. Ogni uomo poi riceverà un corpo trasfigurato. Ecco, quindi direi che ce n'è abbastanza per dire abbiamo ragioni, da parte della regina della pace, da parte della scrittura e anche del buon senso e della ragione umana per dire che la reincarnazione non è un'ipotesi ammissibile, non è compatibile con un giudizio ragionevole sulla vita dell'uomo. Allora cos'è la morte per un cristiano? Per affrontare l'aspetto della morte come porta aperta sull'eternità, dobbiamo chiarire un termine che abbiamo impiegato tante volte, ma forse poche abbiamo spiegato, il termine escatologia, che presenta almeno tre sensi diversi, ma tutti correlati tra loro. In greco, to eschaton significa ultimo, è un genere neutro. Quindi un primo senso del termine escatologia potrebbe essere, non so, il discorso sulla realtà ultima o sulla fine del mondo. Però la radice greca può anche essere considerata, no, adottando una prospettiva diversa, al plurale, ta eschata, nel senso le cose ultime, quelli che la teologia tradizionale chiamava i novissimi, le cose ultime nel senso del novus, che in latino vuol dire anche ultimo, no? E non soltanto nuovo. E sono le quattro realtà che conosciamo: morte, giudizio, inferno e paradiso. Questo è il secondo senso del termine, quindi la fine del mondo, ma anche quello che riguarda la fine della tua vita, la tua morte, il giudizio, e poi l'inferno, il paradiso. Infine, terzo significato dell'escatologia, secondo una citazione dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 18: non temere, io sono il primo, l'ultimo e il vivente. Parole che indicano Gesù Cristo come o eschatos, un aggettivo sostantivato, l'ultimo. Questo è il senso più profondo dell'escatologia: Gesù Cristo come colui che verrà a giudicare la mia vita, il giudizio particolare, e l'intera realtà, il giudizio universale. Possiamo dire allora che l'escatologia è il discorso su Gesù Cristo come l'ultimo che giudica e la tua vita, che avrà termine secondo la prospettiva dei novissimi, e il mondo intero nella prospettiva del giudizio universale. E premesso questo, si capisce che la morte, non può essere intesa nella sua pienezza di senso come porta sull'eternità se non legandosi a Cristo, che proprio dalla morte ha liberato l'uomo con la sua stessa morte in croce e la sua resurrezione. In quest'ottica, la morte del cristiano va compresa come incorporazione alla Pasqua del Signore. Si entra a far parte di questo mistero. Alla luce della Pasqua di Cristo, il passaggio della morte è una conditio sine qua non, una condizione necessaria per la resurrezione, cioè per l'ingresso nella vita eterna. Questo vale per ogni uomo, come è stato per Gesù. Lo dice bene San Paolo, Lettere ai Romani, capitolo 6, versetto 3. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Se si partecipa alla morte di Cristo, si partecipa anche alla sua resurrezione. Infatti è il Catechismo stesso che al numero 1006 afferma: per coloro che muoiono in grazia di Cristo, la morte è una partecipazione alla morte del Signore per poter partecipare anche alla sua resurrezione. Si tratta di guardare dunque all'esistenza terrena di Gesù per comprendere come ogni uomo è chiamato a ripercorrere le tracce. Potremmo dire che in Gesù Cristo si sono unite non soltanto le due nature, vero uomo e vero Dio, ma anche i due cammini, il cammino finito, ecco, limitato dell'uomo e quello eterno e vitale di Dio. Su questa base, alcuni sostengono la cosiddetta dottrina dell'ultimo istante. Come Cristo, alla fine della sua esistenza terrena, ha riconsegnato lo Spirito al Padre, così l'uomo, nell'istante della morte, avrebbe piena consapevolezza di sé e della propria vita e potrebbe decidere per il suo destino eterno, pro o contro Dio. Un po' in parallelo come è capitato per gli angeli, no? La scelta nel secondo istante, pro o contro Dio. Questa teoria della decisione finale presenta però una visione pelagiana della salvezza. È un po' come se l'uomo da solo fosse capace all'ultimo momento di decidere per sé. Pelagio, ricordiamo, grande avversario di Sant'Agostino, sosteneva che la grazia di Dio fosse superflua e che l'uomo potesse da solo decidere di salvarsi. E questo forse è quello che pensa anche l'uomo di oggi, no? E invece sappiamo che la vita eterna non si ottiene e non si perde in un solo istante, ma sulla base di azioni ripetute nel corso di una vita. E noi uomini siamo infatti esseri razionali discorsivi, l'ho già ricordato, non intuitivi come gli angeli. E dunque, e qui torno a quello che ho detto in partenza, si muore come si è vissuto. Pensate a quello che dice Gesù: nel capitolo 25 di Matteo, versetto 21, bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Di per sé dunque la morte, ultimo istante, non ha un valore intrinseco, ma è Cristo che infonde alla morte un nuovo valore. Egli rinuncia infatti alla propria vita per volontà del Padre e per amore di coloro che, per salvare i quali è stato mandato. La morte di Gesù, scelta liberamente, non dimentichiamolo, però è stato qualcosa di doloroso, di drammatico, un fallimento apparente, almeno dal punto di vista terreno della sua missione. E tale morte è assunta da Gesù volontariamente, l'aveva già profetizzato il profeta Isaia, capitolo 53, versetto 4: si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Cristo dunque è morto liberamente, ha accettato la morte in croce, come anche ricorda l'inno paolino della lettera ai Filippesi al capitolo 2, laddove dice che Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Sarà proprio questo il tema che vedremo, cari amici, la prossima puntata, per comprendere come il valore della morte di ogni uomo bisogna ricercarlo nel significato che alla morte ha dato Cristo assumendola su di sé. Vedremo che è un qualcosa di paradossale, di umanamente incomprensibile, ma di veramente salvifico per l'uomo. Ci basti, ecco, avere raccolto gli spunti di questa sera per avere almeno un'idea sempre a portata di mano quando ci si interroga sulla morte. L'idea secondo la quale in questa esperienza limite che si consuma in un istante, quello che serve per oltrepassare la soglia tra la vita e la morte, tra la vita e la vita eterna che si apre nella salvezza o meno, a seconda dell'anima, in quel momento sarà, come si può dire, chiaro che si raccoglierà quello che si è seminato. Ecco perché è una buona cosa fare tesoro della sapienza cristiana che in tutti i secoli ha sempre raccomandato di prepararsi, come ricordava anche nella recente omelia, il neocardinale Raniero Cantalamessa, prepararsi alla morte guardandola come una sorella, guardandola come una compagna di un cammino, quasi come un'ombra che sempre più si distende, facendosi più netta, più chiara, più vicina a colui che, come anche Francesco, ecco, usava fare negli ultimi, capitoli della sua vita terrena, diventa foriera di una nuova sapienza e capace di svelare il vero senso di quella vita che nella morte trova non soltanto la sua fine, ma anche il suo compimento e la sua apertura sull'eternità. Bene, basti così per questa sera, penso, per questo discorrere così denso. Lasciamo un tempo per una breve pausa e poi ci ritroviamo con le vostre domande. A tra poco. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, professor Manetti, mi chiamo Pierluigi e telefono da Merate in provincia di Lecco. Io ho Benvenuto. ascoltato la sua trasmissione e penso che le domande sull'eternità siano le domande chiave o tra le domande chiave che l'uomo si è sempre posto, ecco, però le ho telefonato perché avrei bisogno di un chiarimento, cioè noi sappiamo che dopo la morte l'anima si separa dal corpo e compariremo davanti al tribunale di Gesù. Però Gesù ha anche detto che alla parusia, cioè al suo ritorno glorioso, ci sarà la resurrezione gloriosa dei corpi. Ecco, volevo un attimo un parallelo tra la morte del corpo e la risurrezione gloriosa dei corpi alla parousia di Gesù. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie per questa domanda che anticipa un tema che avrò modo di affrontare in maniera sicuramente più esaustiva in futuro, ma qualcosa lo posso dire. C'è una prima morte, si legge nella scrittura, penso agli scritti paolini, all'Apocalisse, che è la cosiddetta morte fisica, e quella della quale abbiamo parlato nel corso di questa conversazione. C'è una seconda morte, che invece è quella conseguente del peccato, ed è la morte che si sperimenta vita nel giudizio. Possiamo dire che questa seconda morte, che coincide con la dannazione eterna, ed è morte perché non c'è più la vera vita nell'uomo, che è la grazia di Dio, si ha e si sperimenta nella sua definitività già con il giudizio particolare, l'anima che viene destinata all'inferno e dannata per sempre. Allora sì, può avere senso parlare del tribunale di Dio, anche se preferisco parlare dell'incontro con Gesù, che è l'unico che ha l'autorità e il compito datogli dal Padre, come Gesù stesso dice nel Vangelo, di giudicare, e può giudicare l'uomo in quanto è vero Dio e vero uomo. In quanto vero Dio ha il potere di giudizio, in quanto vero uomo ben conosce quella realtà che va a giudicare, che è l'uomo stesso. Alla fine dei tempi, quando ci sarà la parusia, risorgeranno i corpi. Ma come dice bene nella prima lettera ai Corinzi San Paolo, ci saranno per i corpi che sono parte di una persona la cui anima è stata indirizzata alla salvezza. Ovviamente ci saranno resurrezioni per la vita, corpi glorificati. Invece, per quei corpi che risorgeranno per un giudizio di morte, cioè legati a quelle anime che fanno parte di persone votate alla perdizione eterna per propria scelta, ci sarà appunto una morte eterna. Le caratteristiche dei corpi glorificati, lo vedremo, sono la leggerezza, l'incorruttibilità, la velocità, tutto quello che fa pensare che questo corpo fisico non abbia più le caratteristiche di degenerazione e corruzione tipiche del nostro cammino terreno. E dall'altra parte abbiamo invece corpi pesanti, scuri, ombrosi, cupi, sofferenti, che saranno quelli che completeranno la pena dell'inferno. Quando i corpi risorgono, non è che semplicemente è come acquistare un guscio, ecco, e completare con un optional una realtà che già di per sé era completa, ma si ricostituisce la persona. La risurrezione finale dei corpi è fondamentale perché fino ad allora noi parliamo di anime e non di persone. La Chiesa è molto attenta quando ci chiede di pregare per i defunti, dice sempre preghiamo per l'anima del tale e del tale. Ecco, così penso di aver risposto, ma le dico che tra poche puntate affronteremo nello specifico proprio la questione dei corpi risorti. Pronto? Pronto, pronto, Buonasera. pronto. Buonasera, io sono Enzo. Sì, grazie di quello che ha spiegato, ti ringrazio molto. Cioè, io volevo dire questo, no? Cioè, attenermi nella condizione nostra, diciamo, stiamo vivendo, no? Tutti quanti. Volevo dire, volevo parlare della morte, perché lei alla fine ha detto appunto che la morte è come un'ombra che pian piano si allunga, pian piano ci avviciniamo. Tempo passa e quindi ha detto che bisogna praticamente vederla come un'amica, e quindi io ho capito questo, cioè è come se dovessimo pian piano accettare questa condizione nostra mortale, perché il punto è questo, il mio punto, almeno personalmente io vivo diciamo in questa paura, confesso la verità, dice io provo paura, questa paura diciamo della morte, anche di tante altre cose, di che si soffre nella vita, dei rapporti anche con gli altri, a volte c'è questa paura di fondo, no? Però è questa paura anche della morte che gioca molto, no? E voglio dire questo, cioè per vincere questa paura dal punto di vista cristiano è importante, per esempio, sappiamo, no? È importante quindi guardare a Gesù, io così sto capendo, no? Però ultimamente su un libro importante di un bravo autore diceva appunto che questo punto qui, questa paura della morte che è diffusa, si può, se lui la recupera in questo modo, fa questo ragionamento, dice per superare questa paura bisogna accettare la morte, cioè bisogna vederla, come ha detto lei, un po' come un'amica, quindi accettarla. E difatti lui fa un gioco di una frasetta e dice purtroppo noi sappiamo che dobbiamo morire, ma non l'accettiamo. Sappiamo che dobbiamo morire, facciamo questo giochetto inconsciamente, però sotto sotto non l'accettiamo, e questo è l'errore, dice lui. Invece bisogna essere consapevoli, anche nella paura, bisogna avere questa consapevolezza di, come dire, di accettare questa realtà. se no facciamo sto giochetto a trabocchetto e poi cioè, non vogliamo vedere la realtà e poi stiamo male perché non accettiamo la nostra condizione. Insomma, Certo. un tuo parere su questo. Allora, grazie perché è una puntualizzazione molto utile. E non basta dire so di dover morire, ma occorre accettare, vivere, fare propria in maniera consapevole questa realtà. Mi permetto di aggiungere che forse si può andare anche oltre la semplice accettazione, non è la rassegnazione degli stoici dell'antichità, come dire è ineluttabile questo destino, facciamocene una ragione, non è il tragico fato dell'uomo greco. Si tratta invece di dire io accolgo la morte come una porta che si apre su una vita ben migliore. E io ho l'abitudine quando incontro persone anziane che si lamentano, povero me, dico, ma guardi che il meglio è da venire. E il meglio non è dietro di noi, è davanti a noi. Per chi pensasse veramente che la morte è una porta che si apre sulla vita eterna, l'incontro con Gesù, ma allora che cosa ha ancora da temere? Che cosa ha da temere? E aggiungo che forse non è sufficiente solo guardare a Gesù come esempio di vita, ma visto che parla dell'Eucarestia come pane di vita, io credo che il modo per cominciare già adesso a vivere in questa eternità sia di accostarsi il più spesso possibile all'Eucarestia, perché quando Cristo è in noi ci conforma al suo corpo eucaristico che è vita eterna, che è per sempre, che è la presenza fino alla fine del mondo, alla fine dei tempi. Allora, vivere della vita di Cristo è già entrare in questa dimensione di eternità. E questo vuol dire, lo ripetevo già prima, continuare a guardare avanti. Allora la morte non diventa semplicemente un'amica, come una compagna di viaggio che siamo costretti ad accettare. Ma di più diventa, come dice Francesco, una sorella. È una sorella perché fa parte di questa grande famiglia che è l'avventura della vita umana, però secondo un progetto di Dio meraviglioso che il peccato originale non è riuscito a rovinare, perché Dio nella sua misericordia creativa e davvero geniale ha potuto ripensare alla morte con il sacrificio salvifico di suo figlio in croce. Pronto? Senta, io sono una donna che 2 volte alla settimana mi viene in casa una che è testimone di Geova e che loro ritengono che dopo loro verranno su un giardino pieno di cose belle, insomma vivranno su questa terra così. Loro sono venuti 1600 anni dopo Cristo e noi abbiamo aperto l'Antico Testamento quando loro si sono fatti sentire. E ecco, se voleva dare una. Perché io, ecco, mi viene in casa 2 volte a settimana Come e si una chiama, volta mi ha signora? spento anche la radio. Cecilia. Grazie Cecilia. Allora, beh, se si era spento la radio e stava anche trasmettendo Radio Maria, questa è una cosa gravissima. Ma battute a parte, guardiamoci bene da chi accogliamo in casa, nel senso che poi siamo noi che scegliamo un po' chi accogliere e che cosa ascoltare. Grande rispetto per tutte le persone, ma non dobbiamo per forza condividere le idee. E la lettura che questa setta, perché questa è la realtà dei testimoni di Geova, fa della scrittura tra estrapolazioni, manipolazioni ed errori di traduzione è molto vicina al fondamentalismo, cioè alla lettura letterale, no? Per cui laddove l'Apocalisse parla dei 1000 anni in cui regneranno con Cristo i 144.000 salvati, così è, così sarà soltanto per loro. Il problema è una lettura che è distante anni luce da quello che è il vero annuncio salvifico di Gesù, che del paradiso ha parlato anzitutto come di una condizione in cui prima le anime e poi le persone si troveranno a godere dell'amore e della comunione con la Santissima Trinità. E allora dico, facciamo bene attenzione a non lasciarci fuorviare da da tutte quelle false dottrine che sono un esempio di falso profetismo, un indizio degli ultimi tempi e che a volte forse trovano terreno fertile nella nostra anima perché non siamo così ben preparati sulla nostra. Cito spesso il catechismo perché è un invito implicito a dire a me e a voi, cerchiamo di attingere anche a questi grandi e preziosi strumenti che la Chiesa ci offre per essere almeno più consapevoli dei fondamenti della nostra fede. Pronto? Pronto, buonasera. Riguardo all'argomento, sono Virginia. Senta, Grazie. allora, io la paura della morte non ce l'ho, però quando mi capita che perdo una persona cara, non so come accettarla, cioè, so pure che un domani, se Dio vorrà, me la farà rincontrare, per esempio come i miei genitori che ho perso da poco e mi hanno cresciuto con tanto amore perché mi hanno adottata, permettendo. Però ecco, anche con il mio compagno, ogni tanto lui dice, io poi dovrò morire prima o poi. Non riesco proprio ad accettare questa situazione. Cioè, se si guarda me stessa, io sono tranquilla e sono pronta ad abbracciare Gesù perché è il mio primo amore, si può dire. Sono comunque appassionata di Gesù, cioè, lo rispetto e lo amo come se fosse stato, come se fosse il mio amore segreto, diciamo, da. E però riguardo alla morte fisica delle persone che mi sono state accanto, non, cioè so pure che un domani, se Gesù vorrà, me le farà rivedere, però nel frattempo mancano, capito? Come Certo, posso, certo. non ho Grazie paura per. io di. No, no, ma questa è una prospettiva che io penso chiunque di quelli che sono all'ascolto potrebbe sottoscrivere in questo momento. Perché? Perché quello che ci spaventa della morte è il fatto di perdere le persone care, della separazione, del distacco. E allora uno dice giustamente: no, io amo Gesù soprattutto, non mi dispiaccio per la mia morte, però per gli altri, allora bisogna usare lo stesso criterio che si usa per sé anche per gli altri. E anche per andare a fondo del bene che vogliamo agli altri, per capire se è un autentico bene o se c'è dell'egoismo. Mi spiego. Se questa persona che muore, si salva magari anche grazie alle mie preghiere, alle mie indulgenze, alle mie intercessioni, alle messe a cui. Se ho la certezza che sta per incontrare o avrà già incontrato Gesù e che quindi è nella pienezza della gioia, ma com'è possibile che la tristezza per il distacco momentaneo da questa persona amata sia maggiore della gioia che dovrei provare nel saperlo contento? Io faccio sempre un piccolo esempio molto facile, stando in famiglia, ho una sorella che vive in California, sposata, e con un ragazzo inglese. E a volte dico, ma certo che mia mamma è dispiaciuta per la grande distanza che c'è tra l'Italia e la California, ma la gioia di saperla là, contenta e sposata, è ben maggiore della tristezza di saperla lontana, perché l'amore non possiede, ma lascia liberi. E allora uno dovrebbe dire, forse il modo per guarire da questa, che non è un problema del dolore del distacco, è normale che ci sia, ma bisogna guarire da un dolore che è maggiore della gioia che dovremmo provare se sapessimo i nostri cari in paradiso. Ma per fare questo dobbiamo cercare, carissimi amici, di conoscere sempre più e meglio quel paradiso che ci attende dopo la nostra morte, che è Gesù stesso. E con questo, carissimi, io concluderei, perché il tempo è davvero volato via, e vi ringrazio per le domande, le sollecitazioni che ricevo durante la trasmissione, ma anche durante il mese, ecco, da una puntata all'altra, con le email, con tutti i vari commenti, le cose che ricevo. Grazie anche per quanti seguono il canale YouTube. Vi chiedo come sempre una preghiera, in modo particolare per quanti sono nella sofferenza in maniera diretta o indiretta per questa pandemia da coronavirus, di pregare in modo particolare per il Santo Padre, ma per tutta la Chiesa, i sacerdoti e i vescovi, e poi per le persone che sono sofferenti nel corpo, nel fisico e nello spirito. E a tutti voi assicuro la mia preghiera. E quindi davvero a presto, uniti in comunione in Gesù da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.